Sì, sarà interessante vedere appunto lo scambio generazionale anche che ci sarà fra questi gruppi che saliranno sul palco. Esatto, scambio generazionale importantissimo proprio per l'evoluzione della musica e l'evoluzione del jazz. Allora, dall'Italia ci spostiamo a Londra, giovedì 24, mamma mia, ci vorrei proprio andare al Wigmore Hall a vedere il mio sassofonista preferito che è Joshua Redman, così come il 27, domenica 27 aprile, c'è Ben Harper al London Palladium, bellissimo. Facciamo un salto anche a Parigi, da non perdere per i parigini e i turisti parigini, Salif Keita venerdì 25 alle Carré du Temple e poi a New York, mamma mia, domani, giornata di Pasqua, potremmo festeggiare la Santa Pasqua con il Harlem Gospel Choir al BB King Blues Club and Grill. Questo è un appuntamento da non perdere a New York, così come gli amanti del jazz contemporaneo potranno godersi dal 22 al 26 al Jazz Standard, bellissimo jazz club, Ethan Iverson con i suoi Bed Plus, e così come Vijay Iyer, il pianista indiano che sta andando per la maggiore in giro per il mondo, giovedì 24 al Green Space. Ancora qualcosa? Sì, abbiamo ancora un minuto, quindi Chick Corea e Bella Fleck invece saranno insieme il 24 di aprile a Los Angeles, al Race Hall, proprio all'Università di Los Angeles. E poi, questo è un appuntamento secondo me molto divertente che ci segnali, mio caro Tromba, le Bosky Fest con Jeff Bridges il 25 aprile al The Wiltern, sempre a Los Angeles. Abbiamo detto più o meno tutto, noi stiamo aspettando i nostri ospiti perché presentiamo fra pochissimo questo album intitolato Acustronica, con protagonista il batterista Mimmo Campanale, bravissimo, che verrà qui con questa vocalist polistrumentista giovanissima e anche una bella ragazza. Attenzione, si chiama Serena Brancale, proprio per presentare questo album che nelle ultime settimane ha scalato le classifiche jazz su iTunes, addirittura per 3-4 giorni è stato primo in classifica, quindi ne parleremo con lui. Direi di dare il via alla musica anche per questa seconda parte, in attesa di presentarvi Mimmo Campanale e Serena Brancale, quindi Acustronica. Ascoltiamo un grande maestro del jazz, del funk e della fusion, purtroppo scomparso dall'ultimo album Dreamweaver. Il brano si intitola Trippin' e lui è George Duke con un suono inconfondibile qui al Soundcheck. Check. Il suono della musica. Voce di Gregory Porter, ospite però del progetto Zbonix, realizzato dal batterista polistrumentista Zach Nasher, nuovo album per lui, distribuzione italiana da parte della Egea, ma è sempre un disco indipendente. Il brano si intitolava Issues of Life. E dal batterista Zach Nasher passiamo a un batterista in carne e ossa, si è materializzato nel nostro studio, lo abbiamo annunciato, vado a introdurvi l'arte e il talento di un veterano, ormai lo posso dire, della batteria. C'ha anche qualche capello bianco, ma giovanissimo dietro i tamburi, il nostro Mimmo Campanale, nuovo album per lui intitolato Acustronica. Credo che già dal nome potremmo definire un po' il mondo sonoro di questa produzione, quindi Acustronica, un suono sicuramente acustico, quello degli strumenti utilizzati, poi alla fine un trio jazz, batteria, contrabbasso, basso elettrico e pianoforte, però con una visione digitale e elettronica. Quindi benvenuto a Mimmo Campanale al Soundcheck di Radio 24. Ciao Giorgio, ciao a tutti, Grazie per averci invitato. No, grazie a te per essere venuto. Io sono contento, ho annunciato anche all'inizio di questa seconda parte che il disco Acustronica, realizzato con i tuoi partner e la partecipazione di una bellissima vocalist, anche molto talentuosa, polistrumentista, che vedo qui a fianco a te, che è Serena Brancale. Serena, buongiorno, buonasera, anzi benvenuta. Buonasera, buonasera. Ecco, allora, il disco ha scalato improvvisamente dai primi giorni di pubblicazione la classifica jazz di iTunes, e secondo te per quale motivo? Perché hai molti parenti? Sì, anche, ma anche forse per curiosità, forse per il titolo Acustronica, forse perché c'è Serena Brancale, ci sono tanti amici bravi che suonano in questo disco, non so, spero che sia piaciuto. Beh, ma senz'altro, se è andato primo in classifica sicuramente è piaciuto, e è piaciuto anche a noi, ed è per questo che tu ti trovi qui. Se non ci fosse piaciuto difficilmente saresti al soundcheck di Radio 24. Sì, tu dicevi c'è Serena Brancale. Sì, perché Serena Brancale, anche se non è conosciutissima in questo momento a livello nazionale, è un vero fenomeno secondo me, perché è una polistrumentista. Cioè, ci sono poche donne in Italia che hanno la passione per il canto, hanno una splendida vocalità, ma ci sono poche polistrumentiste. Te invece lo sei, ti diverti fra il pianoforte, le tastiere, la batteria, sei molto ritmica, e anche nella tua musica si sente questa tua particolare predisposizione per il ritmo. Com'è stato collaborare con Mimmo in questo Acustronica, Serena? Molto facile, perché pensiamo le stesse cose, mentre seguiamo qualcosa è già nella mente, lui sa già quello che so per fare e viceversa, quindi e c'è molta stima, c'è una collaborazione totale. Ecco, il disco non è un disco facile al primo ascolto, sicuramente un disco che sorprende gli appassionati di musica, e non c'era, come dire, l'intenzione di voler colpire in maniera, lasciatemi usare il termine, pop o commerciale. Vi siete sentiti liberi di esprimervi, anche perché il disco è realizzato da indipendenti, quindi ha il suo valore per questo. Sì, certo, non abbiamo pensato a un prodotto che potesse essere jazz o funk, soul, liscio o pop. Abbiamo fatto quello che avevamo in mente, quello che io ho pensato da circa un anno. Ho cominciato a pensarlo questo disco e sono riuscito a realizzarlo da pochi giorni, insomma è uscito su iTunes. Non abbiamo pensato al genere, non abbiamo pensato a nulla, abbiamo pensato di fare quello che volevamo, quello che ci piace fare. Quindi di fare musica in libertà, mi sembra la cosa più ovvia per dei musicisti preparati come voi. Allora direi di ascoltare subito Acustronica. L'album apre le danze con un brano intitolato My Moon. Che tipo di brano è? Ce lo puoi presentare, Serena? Sì, questo è un brano che nasce in italiano, Luna. A Mimmo piaceva tantissimo e ha deciso di... È una tua composizione? Sì, è il mio brano che ho scritto sempre scherzando un po' sul computer, giocando con questi mezzi elettronici. Non è stato, insomma, studiato, è stato un brano che ho scritto di getto. E niente, con Mimmo l'abbiamo rivisto cercando di riprendere, insomma, tutti quei suoni che ci piacciono, e quindi strizzando l'occhio alla musica americana, nu soul, eccetera. Acustronical soundcheck, il brano si intitola My Moon. I want to dedicate my music to you, cause your pale face remember mine. You deserve the best sound, like a glow, like a no. Smile, eyes, cheeks, smile all night, and your soul white. What's happening inside, baby? Come on. My moon, my moon, my moon, she is crying. Soundcheck, il suono della musica. Acustronica, ovvero il batterista Mimmo Campanale, la vocalist polistrumentista Serena Brancale, ospiti del soundcheck di Radio 24 per presentare questo nuovo album che sta avendo successo su iTunes, perlomeno nella sezione jazz. Se questo disco dovesse sbarcare invece nella sezione pop e andare nei primi posti in classifica, vuol dire che ormai i giochi sono fatti e sareste lanciati pronti per una tournée infinita. Ma noi siamo dei musicisti musicisti militanti, e quindi con Acustronica mi sa che siamo quasi pronti per affrontare la stagione estiva, o no? Sì, certo, si stanno prospettando un po' di concerti in festival jazz dopo l'uscita del disco, insomma, si sono fatti sentire un po' di organizzatori. E si sta muovendo qualcosa, lo possiamo dire, è stata una stagione un po' balorda per la musica e un certo tipo di musica in Italia, per le vicende che ben conosciamo, vicende politiche, vicende economiche, che non hanno aiutato l'arte e il talento dei musicisti, quindi ci auguriamo tutti in una ripresa per il nostro paese e quindi anche per l'arte e la cultura. Vedo il nostro Francesco Tromba che, come spesso fa, alza il dito indice, e quindi la domanda è di rito: devi andare alla toilette o fare una domanda, Francesco? Che domande fai? Devo fare una domanda. Allora facciamo la domanda, vediamo, attenzione, perché lui è un intellettuale calabrese e quindi fa delle domande tipicamente calabrese. In realtà questa volta è più una domanda di gossip che altro. Di gossip? Sì, sì. Noi sappiamo che oltre a collaborare musicalmente siete una coppia anche fuori dal mondo della musica e del lavoro. Volevo chiedervi come riuscite a bilanciare questa cosa quando lavorate insieme. Ecco, la domanda è tipicamente calabrese, ve l'avevo detto, quindi Serena, tu che sei una bella ragazza e poi le donne sono anche più preparate nel rispondere a certi quesiti, che cosa puoi dire al nostro Francesco Tromba di nome ma non di fatto? Ma siamo una coppia, quindi insomma ci amiamo, ci litighiamo e suoniamo e ci... non so che dire. Una coppia normale, come tutte le altre coppie. Poi spesso suoniamo insieme, quindi non c'è problema, nessun problema, diciamo. Ecco, sei contento della risposta? Non c'era una risposta poi così filosofica da dare? No, infatti, era una semplice curiosità. Una curiosità, potevi chiederla anche dopo dal programma, allora, se era una curiosità. Comunque, da una coppia sorridente come Serena Brancale e Mimmo Campanale a un'altra coppia meno sorridente ma fortissimi sul palco, una coppia, sono due ragazzi, due signori che fanno musica da tanto tempo e a grandissimi livelli, il pianista Brad Meldau e il batterista Mark Guiliana, un portento dietro ai tamburi, un musicista che è riuscito a coniugare la sua passione, la sua tecnica per la batteria, ma anche con una visione contemporanea, utilizzando ritmiche jungle, utilizzando campionature e anche batterie elettroniche live. Questi due signori hanno iniziato a imperversare musicalmente nei club newyorkesi, sperimentando questo duetto, un duetto assolutamente elettronico, per quanto l'elettronica sia utilizzata dal vivo, e oggi, ormai da un mesetto, vengono fuori con Time in the Dragon, album sotto il nome di Meliana, ovvero Brad Meldau e Mark Guiliana. Il disco, lo posso dire, è veramente tosto, anche perché manca un po' l'aspetto melodico tipico di Brad Meldau, ma si divertono moltissimo con le sonorità e le atmosfere. E il brano che ho scelto per voi appassionati di Radio 24 si intitola Sassy Acid Sassafras, non si sa che cosa significhi questo nome pazzesco, ed è forse uno dei brani più accattivanti, potete immaginare gli altri. Comunque sono Brad Meldau e Mark Guiliana qui al soundcheck di Radio 24. Sì, sono stati anche in Italia con un bellissimo concerto all'Auditorium Parco della Musica alcuni mesi fa, Brad Meldau e Mark Guiliana, per presentare questo progetto dal vivo, Meliana Album, che non potete perdere se siete degli appassionati di musica e se seguite il talento di questi meravigliosi musicisti. Mimmo Campanale e Serena Brancale, i nostri ospiti per presentare Acustronica. Te sei un batterista e quindi sarai aggiornato sulle nuove leve e le nuove sonorità. Come si è modificata la batteria negli ultimi anni? La batteria negli ultimi anni si è evoluta parecchio nel modo di suonarla, nel setup. Sono cambiati, se pensiamo a 100 anni fa, la batteria nasce a pezzi, cassa, la gran cassa la suonava un percussionista, il rullante un altro percussionista e i piatti a mano. Quindi erano 3 percussionisti che suonavano lo stesso strumento, che poi è diventato un solo strumento. Quindi si è evoluta in un modo pazzesco, anche il modo di suonare è diventato molto moderno. Se penso a Chris Dave, a Mark Guiana, che ho ascoltato con Avishai Cohen, niente, sono batteristi che... E io so che Serena anche suona la batteria discretamente, perché Mimmo è il tuo maestro, mi sa, sulla batteria. Quanto ha aiutato conoscere lo strumento, la batteria, e utilizzare le percussioni nella vocalità? Faccio molto caso ora a tante cantanti che cercano di creare una melodia partendo dal ritmo. Questa cosa mi affascina un sacco. Tipo? Tipo c'è una cantante australiana che si chiama Eva Lamcam, che amo tanto perché lei è molto ritmica e quindi rimango molto affascinata da questo modo di creare un brano partendo dalla batteria. Allora torniamo ad ascoltare Acustronica qui al Soundcheck. Il brano si intitola Bye Bye. Chi sono i musicisti che hanno realizzato questo brano? Allora, comincio dalle femminucce, che sono Serena Brancale, voce Carolina Bubbico, che ha arrangiato gli archi sul brano Giulio. Poi ci sono 3 pianisti, ovviamente in brani diversi, c'è Mirko Signorile, Mario Rossini e Ettore Carucci. Poi c'è al basso e contrabbasso Luca Lemanno, Paolo Romano al basso, Nico Stufano alla chitarra, poi c'è Leo Gadaleta al violino, ai violini. Perché li abbiamo detti tutti? No, manca Gaetano Partipilo, il grande. Il grande Gaetano Partipilo al sassofono. Allora, bye bye Acustronica al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E lo abbiamo presentato, Keen, il nuovo lavoro del Pat Metheny Unity Group. Il brano era We Go On, e qui lasciatemi ricordare anche il bravissimo Giulio Carmassi, polistrumentista italiano che fa parte dell'organico prestigioso messo su da Pat Metheny, tra l'altro in tournée già da mesi, e prestissimo arriveranno anche per 6-7 concerti in Italia, e quindi andremo ad assistere, ad applaudire Pat Metheny Unity Group e il talento del nostro Giulio Carmassi, che polistrumentista che suona tutto, mia cara Serena Brancale. Te sei una polistrumentista, ma lui è il polistrumentista, suona tutto: batteria, contrabbasso, violoncello, vibrafono, corno francese, sassofoni, trombe, suona di tutto. Non si sa come abbia fatto a 32 anni arrivare a questo livello, ma si merita il successo che sta ottenendo. Noi siamo praticamente ai saluti, quindi io ringrazio Mimmo Campanale e Serena Brancale per essere stati nostri ospiti. Auguri per Acustronica, e diventa un po' complesso citare il titolo di questo album, che io vi raccomando, lo trovate in distribuzione digitale sulle piattaforme, naturalmente su iTunes, e prestissimo dal vivo. Volete fare gli auguri di Pasqua ai vostri parenti? Voi tornate a casa, chissà che vi mangiate domani. Intanto voglio fare gli auguri a te e alla tua famiglia di buona Pasqua. Ti ringrazio per averci invitato, per noi è stato un piacere e un onore stare con te, e auguri a tutti di buona Pasqua. Grazie mille, Gegè, grazie. Grazie a voi. E io io faccio gli auguri anche al nostro Francesco Tromba. Noi ci rivediamo domani, perché alle 15 siamo di nuovo in onda per il soundcheck e ci andiamo a fare una bella mangiata. Dove andiamo? Andiamo a pranzo a casa di Marisa Laurito. Che meraviglia, tu non sai quanto mangerai e come mangerai domani. La conosco, la signora Laurito. Hai preparato già delle domande calabresi per la signora Laurito? Ovviamente sì. Molto bene. E poi nella seconda parte, quella che partirà alle 19, nostro ospite c'è un altro musicista italiano di prestigio, Francesco Bruno, che presenta Vitam, il nuovo album, anche questo un album bellissimo, produzione indipendente e italiana. Quindi grazie a tutti voi, vi lascio ancora con la musica di Acustronica, ovvero Mimmo Campanale qui con la nostra Serena Brancale. In questo brano non sei presente, mi sa, però c'è un altro pianista bravissimo, si chiama Mirko Signorile, il solo è lodevole, quindi grazie anche a Mirko Signorile. Acustronica, noi ci risentiamo domani alle 15 per Soundcheck Weekend. A tutti voi buona giornata e auguri di buona Pasqua per domani da Giorgio Telesforo.